La storia e la memoria di Dino Pesole. Ancora una volta si è dimostrato che non è possibile in Italia salvaguardare le istituzioni democratiche se si escludono i comunisti. E questo non perché esista il cosiddetto potere di veto di cui va cercando qualcuno, del Partito Comunista verso i governi e verso i provvedimenti che non gli sono graditi, ma per una ragione più profonda, perché il Partito Comunista ha assunto e difeso una funzione di garante democratico. È il 7 giugno del 1984. Il segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, che avete appena ascoltato, parla a Padova in Piazza della Frutta, un comizio affollatissimo, drammatico, ancora vivo nella memoria del nostro paese. Berlinguer si sente male, ma porta a termine lo stesso il suo discorso. Colpito da ictus, morirà 4 giorni dopo, l'11 giugno, nell'ospedale di Padova. A 30 anni dalla sua scomparsa si moltiplicano libri e iniziative editoriali. Proprio in questi giorni un film diretto da Walter Veltroni dal titolo «Quando c'era Berlinguer» ne rievoca la figura. Leader dal carisma indiscusso, Berlinguer interpreta e guida la sinistra italiana fuori dall'egemonia sovietica. Nessun dirigente comunista occidentale aveva pronunciato parole dure come fece lui a Mosca nel 69, ma anche nel 76. Parole che rischiò di pagare con la vita. Il 3 ottobre 1973 Enrico Berlinguer sta per lasciare Sofia al termine di una burrascosa visita in Bulgaria, che ha messo in luce la profonda spaccatura con il segretario del Partito Comunista e capo di Stato bulgaro, Todor Zivkov. Durante i colloqui a Sofia, Berlinguer ha nuovamente condannato l'invasione sovietica della Cecoslovacchia del 1968 e la dura repressione messa in atto durante la primavera di Praga. In quegli anni, Berlinguer aveva più volte preso le distanze dalla rigida ortodossia del monolite sovietico dell'era Brezhnev, aveva duramente criticato il colpo di Stato in Cile e aveva appena lanciato in Italia il compromesso storico. Quel pomeriggio del 3 ottobre 73, conclusa la visita, Berlinguer e i suoi collaboratori, Genuini e Oliva, lasciano il centro di Sofia e si dirigono verso l'aeroporto. Nella macchina che apre il corteo vi sono agenti di polizia bulgari. Nella seconda viaggia Berlinguer, seduto a destra sul sedile posteriore. Con lui, oltre all'autista, ci sono l'interprete e due alti dirigenti bulgari. Improvvisamente, un grosso camion carico di pietre colpisce violentemente la vettura. L'auto impatta contro un palo della luce e, per un caso, non finisce nella scarpata. L'interprete muore. Berlinguer se la cava con alcune escoriazioni alla testa e molto spavento. Bene, abbiamo in linea lo storico Giovanni De Luna. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Anche chi non è mai stato iscritto al PC, lei ha scritto sulla Stampa lo scorso 29 marzo a proposito del film di Veltroni, subisce il fascino di quelle immagini. Dunque, a distanza di tanti anni ormai dalla scomparsa di Berlinguer, comunque la figura del segretario del Partito Comunista resta forte nella memoria del nostro paese. Direi di sì, le immagini proposte da Veltroni sono molto forti, molto evocative in questo senso. Sono due tipi di immagini, quelle di Berlinguer, come dire, mostrato nella sua sofferenza fisica. Lo spettatore sa come va a finire, sa che da quel comizio Berlinguer uscirà morto e quindi, come dire, vive veramente in una tensione insopportabile, quel volto sempre più scavato, quel sorriso sempre più spento. E a fianco alla drammaticità di queste immagini sull'individuo, sul leader, ci sono le immagini della folla, cioè una folla che oggi noi non riusciamo neanche a immaginare, una folla, come dire, di volti scarni, di corpi magri, di un'antropologia dell'Italia della fine degli anni 70, dell'inizio degli anni 80, che oggi, come dire, è totalmente scomparsa. Non è soltanto un problema di bandiere rosse, non è soltanto un problema di pugni chiusi, non soltanto un problema di coreografia della piazza, è proprio, come dire, un'Italia che non c'è più, un'Italia che si sta congedando dalla dimensione contadina, dalla dimensione della frugalità tradizionale e sta, come dire, per tuffarsi con voluttà nel marasma degli anni Ottanta. Infatti, professore, lei parla di una realtà novecentesca, non le folle anonime dei regimi totalitari, ma una comunità stretta, da una prossimità anche fisica, oltre che politica. Certo. E lei dice, appunto, non ha niente da spartire con la folla virtuale del post-novecento. In questo senso, Berlinguer interpreta il passaggio tra due epoche, in qualche modo. Rimane nella sua epoca, sì. Berlinguer è totalmente novecentesco. Sì. Se vuole qualche spunto, diciamo, di consapevolezza su quello che sarebbe stato il post-novecento, c'è nell'ultimo Berlinguer. Mi riferisco al suo impegno per l'austerità, per i sacrifici, che in un'Italia che stava scoprendo, come dire, la voluttà dei consumi e delle ricchezze facili suonarono anacronistiche, però rimane il fatto che poi la crisi economica del 2007-2008 ci ha imposto un cambiamento di stile di vita e un certo modo un ritorno alla frugalità. Ecco, Berlinguer quelle parole, quelle posizioni le assume dopo lo shock petrolifero del 1973, quindi sapendo, in qualche modo intuendo quel modello di sviluppo di un capitalismo lasciato a se stesso, di un mercato lasciato a se stesso senza regole e senza controllo, può essere distruttivo. L'altro aspetto profetico, tra virgolette, perché poi sono parole che non si possono usare, è la sua intervista a Eugenio Scalfari del 1981. Infatti io credo che forse nel film di Veltroni c'è troppo il Berlinguer del compromesso storico e troppo poco questo Berlinguer, quello che nel 1981 vede la degenerazione dei partiti, ne vede, come dire, il rinchiudersi nel palazzo, nel perdere i contatti con la vivacità della società civile. Quindi è quel Berlinguer che può essere in qualche modo un presagio del post-novecento. Sì, eppure in quegli anni, dal rapimento e l'uccisione di Aldo Moro fino alla morte poi del segretario del Partito Comunista, si consuma, se vogliamo, anche la fine di quell'esperienza politica, che poi in qualche modo segnerà anche la storia della politica italiana nei decenni successivi. Sì, io credo che è passato ancora troppo poco tempo per dare dei giudizi storici molto fondati, però io credo che in realtà il compromesso storico non sia stato il parto migliore della stagione di Berlinguer, credo che sia stata una proposta in qualche modo legata all'emergenza della lotta contro il terrorismo, legata all'emergenza di una situazione internazionale ancora caratterizzata dalla guerra fredda, però io ho sempre pensato che le elezioni politiche del 1976, la Democrazia Cristiana ebbe il 34,6% dei voti, il PC ebbe il 34% dei voti. Le opzioni erano chiare, o stavi con la Democrazia Cristiana o stavi con il Partito Comunista cercando un'alternativa a quello che per 30 anni era stato il governo della DC. E in realtà quando i due partiti si mettono insieme in qualche modo c'è un vulnus rispetto alla volontà dell'elettorato. Se ho votato PC è perché non volevo la DC, se ho votato la DC è perché non volevo il PC. Mettersi insieme, capisco le ragioni dell'emergenza, terrorismo e tutte le cose che abbiamo sempre detto, però io credo che quella scelta fu una scelta che in qualche modo bloccò un processo di rinnovamento in Italia. Cos'è rimasto, secondo lei, professor De Luna, nella sinistra italiana dell'esperienza politica di Berlinguer? Ma dire poco, direi nella tradizione che Berlinguer incarnava, nella tradizione comunista, niente, nel senso che a partire dagli inizi degli anni 90 dimenticare Berlinguer è stato lo slogan più diffuso all'interno delle file degli ex PC. Oggi questa rivalutazione, questa riscoperta di Berlinguer da parte di Veltroni credo che segnali l'inizio di un'elaborazione del lutto che forse doveva avvenire 20 anni fa, perché con troppa facilità si è diventati, da comunisti si è diventati ex comunisti. Diventare ex è un dramma personale, è un dramma collettivo, cioè diventare ex vuol dire fare i conti con le proprie biografie, fare i conti con i più e con i meno delle biografie dei singoli. Questo non è successo, tra l'89 e il 92 dal PC si è passato al PDS, da essere segretari della federazione di Gallipoli o della Puglia si è diventati presidente del Consiglio, ministro degli esteri, senza che ci sia stata veramente un'elaborazione di cosa era stata quell'esperienza e di cosa era stata l'eredità di Berlinguer. Quindi lei dice non c'è stato il tempo necessario per rielaborare anche criticamente quell'esperienza, in sostanza. No, non ci si è voluti prendere il tempo necessario, ecco, per elaborarla. No. È stata una scelta politica, come dire, politica, che però ha, come dire, ha spalancato un vuoto di identità e di memoria, un vuoto che oggi è riempito da Matteo Renzi, che è totalmente diverso da quella storia e che, come dire, suona un paradosso, perché il compromesso storico che Berlinguer voleva realizzare nell'alleanza tra il PC e la DC oggi si realizza dentro il filo del Partito Democratico, avendo, come dire, in Renzi un esponente della tradizione democristiana che diventa il leader di quel partito. Quindi, se la vogliamo vedere da questo punto di vista, questo è un paradosso confezionato dagli eredi di Berlinguer. Io credo però, lo dico con franchezza, non credo che queste etichette democristiane eccetera possano essere applicate. Renzi è il post Novecento comunque, quindi esce fuori dagli schemi, ma esce fuori dagli schemi, come dire, approfittando di un vuoto che si è spalancato nel momento in cui non c'è stata una riflessione seria su quella che era stata la storia del comunismo in Italia. Grazie professor De Luna, grazie ancora per essere stato con noi. Buona grazie serata. A voi, buona serata, arrivederci.